Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ve lo ricordate Rocky Balboa mentre trasporta tronchi sotto la neve, tira carri come un animale da soma e scala gradinate correndo a perdifiato per prepararsi all'incontro con il temibile Ivan Drago? E vi ricordate di lui, un gigante biondo di 2 metri pompato ad anabolizzanti e allenato grazie a macchinari sofisticatissimi, una specie di robot in pratica che credo abbia pronunciato una sola frase in tutto il film, un cordialissimo ti spiezzo in due segnato da un pesante accento russo. Siamo nel 1985, infatti Rocky 4 è una rappresentazione infarcita di retorica della guerra fredda, ma anche una sorta di epopea dove il cuore vince contro la tecnologia. Che dire, intanto che le guerre senza tecnologia oggi si perdono di sicuro e la guerra fredda ne è l'esempio diciamo più eclatante. Non solo, quello che sta diventando sempre più chiaro è che anche nello sport le cose non vanno molto diversamente. Ne parliamo con Vittorio Endler, che è amministratore delegato di Beast Technology, startup nata nel 2013 da 3 ingegneri aerospaziali appena laureati, uno dei quali è appunto il nostro ospite. Buonasera Endler. Buonasera. Allora, voi avete sviluppato un dispositivo che tra l'altro è già utilizzato dalla nazionale di calcio, che si chiama Beast. Ecco, ce lo descrive brevemente, che cosa misura? Beast è un wearable device, cioè un piccolo sensore delle dimensioni di un orologio e che si indossa al polso e che serve per monitorare tutta la parte dell'allenamento che viene svolta all'interno di una palestra. Beast possiede dei sensori, in particolare un accelerometro, sì, un giroscopio, un magnetometro, sì, e grazie a questi sensori vengono raccolti tutti i dati dei movimenti effettuati dalla palestra per fornire delle indicazioni su come migliorare l'allenamento e le proprie schede di allenamento in generale, diciamo. Quindi per esempio immaginiamo che uno abbia un bel bilanciere tra le mani e lo solleva un certo numero di volte. Questo orologio speciale, diciamo, rileva con dettaglio i movimenti, tutta la dinamica in realtà del movimento, e in base a questo che cosa stima? Allora, innanzitutto si tratta di una misurazione che avviene 50 volte al secondo, quindi ad altissima precisione, e il dato principale che dà è il dato di potenza, okay, quindi la potenza erogata dalla persona che solleva il bilanciere, e proprio analizzando questo dato è possibile andare a capire se il movimento è effettuato nel modo corretto oppure no, ed eventualmente migliorare il movimento. Ecco, che tipo di output fornisce all'utilizzatore? Allora, l'output principale è quello di aiutare l'utilizzatore ad allenarsi meglio. Quindi il sensore raccoglie i dati dei vari allenamenti, costruisce uno storico dei dati dell'allenamento in palestra, e in base a quello suggerisce in tempo reale alla persona che lo sta utilizzando come allenarsi meglio. Per esempio, per aumentare la massa muscolare, secondo tecniche di allenamento professionistiche, bisogna erogare sempre come minimo l'85% della propria potenza massima. Noi con Beast andiamo quindi a misurare la potenza massima della persona e a dare sempre un'indicazione alla persona se si trova o meno nella corretta zona di allenamento. Ecco, o ci vuole o l'occhio di un grandissimo esperto per capire queste cose, oppure oggi possono essere misurate quantitativamente con questo tipo di dispositivi. Mi sembra che alla fine quello che voi fate è molto simile a quello che da un po' di tempo si fa sulla corsa, no? I runner ormai sono tutti pieni di fili che misurano battito cardiaco e quant'altro. Esatto. Infatti la nostra, diciamo, mission è stata proprio quella di portare questo tipo di allenamento, che quindi è ottimizzato e più personalizzato, dal campo dell'outdoor, quindi dalla corsa, dalla bici, al campo dell'indoor, quindi tutto quello che è allenamento effettuato all'interno di una palestra. Ecco, senta, da dove deriva questa tecnologia? Il fatto che voi siate 3 ingegneri aerospaziali, tutti e 3, non sarà un caso, io ho idea. Assolutamente no, infatti diciamo che per creare questa tecnologia è stato necessario ispirarsi moltissimo a una serie di algoritmi proprio nel campo dell'aerospaziale, che venivano usati principalmente per il controllo d'assetto in ambito missilistico. Quindi, e allora vedete che la guerra fredda c'entrava, insomma, anche qui. Assolutamente sì. Va bene, grazie Endler. Ecco, grazie a lei. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani. Buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.